Innanzitutto non è una situazione nuova, ci è valuta purtroppo la morte di un giovane trattenuto nel centro di Caltanissetta perché tornasse all'attenzione dei media, in quanto le proteste, anche i casi di cattiva sanità si sono riprodotti negli ultimi 2 anni, si può dire continuativamente, ma su queste strutture è calata una censura fortissima, le visite vengono impedite da parte delle questure, delle prefetture, quindi su ordine del Ministero dell'Interno, associazioni non possono più entrare, indipendenti non possono più entrare, entrano soltanto gli enti convenzionati col gestore e con la prefettura e quindi di fatto quello che succederà dentro non viene mai fuori. Vengono conculcati anche i diritti di difesa perché non ci sono talvolta i tempi per organizzare la difesa dei procedimenti che riguardano civili, amministrativi e penali che riguardano i migranti trattenuti e inoltre si è creata per effetto dei decreti sicurezza, del primo decreto sicurezza, quello del 2018, una commistione del tutto impropria tra richiedenti asilo, tra migranti economici da tempo in Italia ma privi di un permesso di soggiorno perché non hanno più un contratto di lavoro per poterlo rinnovare e migranti detenuti provenienti dal circuito carcerario dove tra l'altro subiscono anche in molti casi ingiustizie perché l'espulsione può essere disposta anche prima di una condanna definitiva e qui risaliamo ai tempi del governo Renzi Gentiloni, dei governi Renzi Gentiloni, c'è comunque una tempistica tale che anche in questo caso persone che magari avevano un permesso di soggiorno e che hanno avuto una condanna non definitiva solo in attesa di giudizio vengono immesse nel circuito espulsivo e poi allontanate in frontiera. Poi di fatto queste strutture rispondono soltanto a una minima parte delle domande di espulsione perché si calcola che non più di 3-4 mila persone all'anno che transitano da queste strutture vengono poi rimpatriate chi in Tunisia, chi in Egitto, qualche altro in Nigeria, in Marocco, perché non sono molti i paesi che poi accettano le persone in rientro anche se queste persone e spesso soprattutto se queste persone hanno dei precedenti penali. Mi pare di capire che vigono anche le restrizioni che c'erano nelle precedenti strutture di detenzione amministrativa come i CPT e i CIE, quindi nulla è cambiato da questo versante. Ma diciamo è cambiato in peggio perché la campagna lasciata centrale dal 2011 al 2015 ha potuto esercitare un'attività costante di monitoraggio perché la commissione nominata dal Parlamento dal 2015 al 2017 ha potuto lavorare raccogliendo dati dalle questure delle prefetture sulla situazione in questi centri e in più in generale nel sistema di accoglienza, oggi manca qualunque possibilità di un monitoraggio tanto da parte di organi parlamentari quanto da parte della società civile. Le autorità paventano anche una possibile regia esterna di queste proteste, è come dire un'opera di criminalizzazione? Ma sicuramente le proteste sono anni che si diffondono spesso contemporaneamente in tutta Italia, certamente giova all'estensione delle proteste il regime di trasferimento da un centro all'altro. Spesso i migranti vengono trasferiti da Torino a Trapani, dalla Sicilia nei centri in Puglia ed è evidente che essendoci in queste strutture la libertà di comunicazione telefonica con l'esterno è ben possibile che azioni di protesta siano assolutamente contemporanee, ma questo perché purtroppo è contemporaneo anche il deficit in termini di servizi prestati e di riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone, dal diritto alla salute al diritto di difesa, quindi è chiaro che è possibile che al di là di una regia esterna, se si verifica un fatto grave come quello che si è verificato a Caltanissetta, sul quale sta indagando la magistratura, quindi non anticipiamo in questo momento i risultati di un'autopsia che è ancora in corso, però se si verificano fatti così gravi come la morte di qualcuno che dovrebbe essere in qualche modo protetto e assistito anche dentro queste strutture, credo che poi se le proteste si diffondono in tutta Italia non sia frutto di un disegno preordinato di qualcuno all'esterno, ma sia una conseguenza di un disagio generalmente diffuso, incrementato sia dalla tempistica incerta dei rimpatri che dalla circolazione, dai trasferimenti continui che le persone subiscono dentro queste strutture. Quali azioni bisognerebbe mettere in campo per ripristinare il rispetto dei diritti umani, insomma il più basilare rispetto dei diritti umani in queste strutture? Ah, innanzitutto eliminare la moltiplicazione esponenziale della clandestinità che si sta riproducendo per effetto del decreto sicurezza che abolisce la protezione umanitaria e prevede anche forme di ipotesi di carcerazione molto, molto rapide per persone che sono in una situazione di attesa di un giudizio o che non hanno comunque un'elevata pericolosità sociale per il tipo di reati che hanno commesso. Poi una regolarizzazione a regime permanente ci vorrebbe per sottrarre persone appunto da questa vasta area di clandestinità, dando per esempio a chi trova un lavoro un'occasione di rientro nella legalità con un permesso di soggiorno per lavoro. E infine la reintroduzione della protezione umanitaria l'eliminazione del trattenimento amministrativo per tutti coloro che hanno in corso procedure di richiesta di asilo o protezione umanitaria, perché in questo momento si è creato veramente un enorme contenitore che in realtà tanto enorme non è, se ci riferiamo anche ad altri paesi europei, ma comunque è enorme per la gravità della violazione dei diritti fondamentali che subiscono le persone che dentro questi luoghi possono essere discriminati a seconda della provenienza nazionale, appunto con la prospettiva certa di rimpatrio in alcuni casi o con nessuna prospettiva di rimpatrio in altri casi. Da questo punto di vista, avere raddoppiato da 3 a 6 mesi i tempi massimi di trattenimento non ha fatto altro che accrescere la tensione senza giovare per nulla alle statistiche in materia di esecuzione, di effettiva, di espulsioni.